Weblog. Cronache Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il signor Pompignoli gestisce insieme ai figli il suo negozio. Di spedizioni, abbiamo i calendari che mandiamo in tutto il mondo, dall'Australia all'America del Nord, America del Sud, in Francia, in tutto il mondo. Insomma. Quanti ne vende all'anno? Ah, noi ne facciamo 1 milione di copie per l'Italia, 1 milione di copie per l'estero. Come lascia intendere il sito? Il calendario è forse il più innocuo dei gadget esposti. Il signor Pompignoli, infatti, tra svastiche, slogan littori e sangiovese nostrano, vende anche altri souvenir, tra i quali sicuramente spicca il manganello commemorativo del duce degli italiani. C'è differenza tra vendere un busto di Mussolini e magari un manganello che può essere usato come strumento? No, questi qui sono manganelli che se le lasciano vendere non sono manganelli, non so, duri. Questi qui appena si tocca si spezzano, se no non te le lascerebbero vendere. Capite, se uno si compra un busto di Mussolini e se lo tiene a casa sua, vabbè, è un nostalgico. Mi rendo conto che ormai sono 2 giorni che non si sente parlare d'altro che di panoplie del regime fascista, cominciando dalla leggenda, dalla facezia estiva del bagnino di Punta Canna che aveva organizzato e costruito la sua zona ombrelloni con cimeli nostalgici, più che altro un personaggio folcloristico, non credo che abbia mai messo a repentaglio l'equilibrio democratico del nostro paese, un poveretto che si circonda ancora di capoccioni del duce, che pensa che ancora con il manganello risolve le sue questioni. Di persone del genere ne ho conosciute tante, la mia maldestra e malandata giovinezza, provenendo io da una famiglia che indubbiamente era composta da reduci della Repubblica Sociale, è noto, fa parte della storia. La mia casa era piena di panoplie fasciste, io e mio fratello ci mascheravamo per carnevale con le divise della federale di mio nonno, ricordo le belle divise bianche da ufficiale, penso, in tenuta estiva, erano ridicole. Mia nonna le ha conservate nella naftalina attraverso anni di epurazioni, di paure, e c'era sempre il baule con le divise del nonno, andavamo lì, ci sembrava vero, carnevale erano tutte le nostre, ci mascheravamo in quella maniera, totalmente inconsapevoli poi del valore, del significato, della condanna storica su quel periodo, quindi sono totalmente privo di ogni pregiudizio rispetto a questo. Si parla anche di una legge proposta dal PD sull'apologia di fascismo, come se già ancora non ci fosse abbastanza sull'apologia di fascismo. Poi parlo oggi di quello che leggo sui titoli solo di 2 giornali, il giornale e Libero naturalmente, che dicono che la Boldrini vuole buttare via i monumenti fascisti, naturalmente. Poi la coda leggendaria di questo episodio è proprio questa, la Boldrini che vuole andare in giro con la dinamite, non so, far saltare la stazione Termini, tutto l'euro compreso, l'obelisco davanti appunto allo stadio olimpico. Questo naturalmente non avverrà mai, i monumenti anche segnati da lo stigma della dittatura, della guerra, della devastazione, le leggi marziali, lì rimarranno comunque testimoni di un'epoca. Detto questo, questa mattina mi piacerebbe fare un esperimento con i miei ascoltatori, un esperimento che sto facendo totalmente senza rete e in totale e intrepida sventatezza. Vorrei, immaginiamo noi che da un certo giorno comunque vincesse la corrente che vuole, pretende l'abbattimento anche di ogni riferimento simbolico su un periodo storico che ha un'unanime condanna. Bene, benissimo, se questo vuole la legge, questo si farà. Quindi urgerà la consegna immediata di tutto ciò che comunque ricorda il regime, che ancora alberga nelle cassapanche, nei bauli, nei cassetti segreti, sotto la biancheria profumata di lavanda di signore ormai molto âgé, bisognerà cominciare a tirarli fuori, se non consegnarli, perlomeno classificarli. Beh, questa mattina volete raccontare cosa avete voi a casa, di residuo, di lontano, non legato necessariamente a un ricordo nostalgico del passato regime fascista? Sapete perché ve lo chiedo? Che ho telefonato a molti collezionisti questa mattina, che hanno i loro siti internet, comprano, vendono, scambiano, hanno stanze intere piene di capoccioni del duce, di orologi fatti con gli elmetti con le bombe a mano, di bandiere, di baionette, di spade, di daghe, di stivaloni, di arpioni, di tutto quello che comunque ricorda il regime, quindi evidentemente ha un valore storico, collezionistico. Li ho chiamati, dico: potete stare accanto a me a darmi una valutazione o darmi un'idea di quello che è il mercato del collezionismo riguardo a questo regime. Beh, tutti hanno avuto paura, nessuno ha voluto partecipare, come se fosse qualcosa di nascosto. Come avessi detto, raccontatemi gli etti di cocaina che avete stipato sotto il materasso. Tutti no, improvvisamente non vogliono parlare. Spero che il pubblico sia più loquace chiamando all'800240024. Cosa avete in casa che in qualche maniera ricorda, commemora, proviene dal passato regime fascista? A tra poco. Melog, cronache meridiane. Grandi archi tricolori davano un aspetto trionfale al paese del Duce, dove egli è stato salutato al suo arrivo dal più schietto amore di popolo. Per l'occasione, la grande colonia solare della GIL, dedicata alla segretaria del fascio femminile locale, Rachele Mussolini, è stata inaugurata alla presenza del fondatore dell'impero col rito dell'alzabandiera e l'appello dell'eroe di Cortellazzo. Allora, chiaro, ogni tanto deve andare qualcosa che ricordi il periodo, non è apologetico, mandare pezzetti dell'Istituto Luce che in qualche maniera sono prese da YouTube, viene considerato apologetico. Rappresenterà questo un reato in futuro? Comunque io ho chiesto agli ascoltatori qualcosa di ben preciso. Vorrei la segnalazione, naturalmente la segnalazione non corrisponde a una ammissione di reato, almeno tuttora, tutto ciò che avete in casa, residuo, rimasto, non condiviso, non necessariamente legato a una vostra posizione ideologica, del regime fascista. Voglio capire quanto ancora rimane, trasuda, trapela, è stato conservato nelle case degli italiani, di ciò che si sta parlando, sia in termini legislativi parlamentari, sia in termini emotivi, se in termini cronachistici. Pensate che è molto difficile riempire giornali e notizie a metà luglio, e quindi il bagnino di Chioggia con i ritratti del Duce e i capoccioni in mezzo alla sabbia era una bella occasione. Francesco, buongiorno. Buongiorno Gianluca, mi sente? Sì, l'ascolto bene, sì. Allora, faccio una premessa. Mio nonno è un ex partigiano, quindi è ancora vivo, sì. Anni, sono giovane, ho vissuto solo, diciamo così, del relato a tutte le storie relativamente al fascismo. Ma mio nonno, buonanima, se gli chiedessimo: ma secondo te è giusto vietare i cimeli di quell'epoca? Mi risponderebbe con una pernacchia, perché anzi, cioè, certi cimeli, certi anche i monumenti, sono la cosiddetta memoria storica. Cioè, ciò che dovrebbero buttare giù, ad esempio, dovrebbero demolire parte della riviera Ardiponente Ligure, che è stata costruita durante il periodo fascista. E al tempo stesso in Italia noi viviamo, diciamo così, questa guerra al fascismo. In altri stati allora dovrebbero vietare cimeli di derivazione comunista allo stesso tempo. Magari in Italia non ci sono stati gli stessi morti che magari hanno fatto, e le torture, tutto quello che sappiamo della storia relativamente al fascismo, giusto? Diciamo che la storia si stratifica, quindi diciamo l'iconoclastia in generale non è mai stata segno di una grande civilizzazione. Le civiltà che si susseguono e sono forti e consapevoli del loro portato, la loro esperienza, di ciò che rappresenta condividerle, non hanno paura del passato, circoscrivono il passato in un'analisi, in una discussione aperta. Io ricordo che qui a Roma per decenni è stato chiuso alla casa del mutilato invalido dietro per Castel Sant'Angelo uno stupendo affresco di Sironi. Ci hanno messo un fondello di cartongesso e l'hanno liberato soltanto qualche anno fa. Ma sì, Villa Torlonia è diventata abitabile da qualche anno, prima non ci si poteva mettere piede, è un posto bellissimo. Considerando anche poi quello che è il contesto storico attuale, nel senso, di punto in bianco è diventato un problema il cimelio fascista della spiaggia di Chioggia, che sa, magari è lì da 15 anni. No, ma quello è diverso. È un bagnino, non è che c'è un valore storico, è un bagnino che ha attrezzato i suoi bagni come in ogni città, in ogni paese c'è il nostalgico del Duce, che c'è Gagliardetti, certo, ma Manganelli, sì, ma fa parte del folklore, cioè, non lo so, esatto, io lo reputo a folklore, hai detto bene, dagli un valore di pericolo per l'integrità della democrazia. Senza considerare il fatto che adesso, al momento in Italia, secondo me, è uno dei periodi dove c'è meno pericolo di fascismo. Ma guarda, io le dirò, io siccome so di cosa si tratta, perché l'ho conosciuto per testimonianza diretta, io direi che in realtà il pericolo c'è per qualcosa che però non è legato ai gagliardetti, al duce che fa mascella volitiva, è legato all'intolleranza, è legato alla pancia del paese. Esattamente, ma si chiama fascismo perché è la forma più vicina che noi abbiamo per chiamare queste cose orrende. Certo. Sul fascismo è giusto che rimanga un grosso pregiudizio di tipo storico, questo è giusto perché ha portato alla guerra, alle leggi razziali, a cose terribili, quello che vogliamo. Diciamo che la lettura più onesta è dire che in realtà tutti gli italiani, la gran parte degli italiani, vi hanno comunque, come sempre accade nel nostro paese, tranquillamente aderito finché pensavano che ciò fosse la maniera migliore per vivere meglio. Poi gli italiani hanno preso posizioni diverse, in Italia c'è stata, che se ne dica, una guerra civile. L'esito della guerra civile è stato che comunque ha vinto la democrazia e oggi viviamo in un paese con tutti i limiti che ci sono, comunque democratico. Io posso parlare liberamente, esiste una grande libertà nel nostro paese, chi dice che nel nostro paese non c'è libertà bestemmia. Nonostante questo, comunque, ogni tanto è giusto rifare il punto su certe cose che magari nelle nuove generazioni non sono così chiare. Quindi la storia va raccontata, con i supporti che ha la storia. I supporti della storia sono gli oggetti, sono le cose materiali, sono le testimonianze. Se si nasconde, si allea che nascondendole è come le fantaleggende che girano in rete sulle multinazionali, le scie chimiche, i rettiliani. Più le cose si tengono nascoste e non si mostra la verità e l'evidenza rispetto a certi fenomeni, più gli si dà corpo. Quindi nascondere i cimeli fascisti significa dire, vedi, hanno paura di qualcosa. In realtà nessuno ha paura di niente. Silvano, buongiorno. Sì, buongiorno. L'ascolto. Buongiorno, senta, io tra i cimeli ho una cosa un po' particolare. Ah, lei possa, ecco, il primo, così cominciamo finalmente a entrare nella parte importante della trasmissione. Lei ha cimeli fascisti? Io ho un cimelio fascista, ma chiamiamolo cimelio fascista. Al tempo delle sanzioni idearono la battaglia del grano. Certo. Fecero qualche cosa di più, evidentemente, a livello locale. La Camera di Commercio di Rovigo, io sono un mugnaio della provincia di Rovigo, ideò un concorso per la spiga più lunga. Io ad un mercatino trovai questo diploma con tanto di spiga, di medaglia, il nome dell'agricoltore vincitore, eccetera, eccetera. Quindi diciamo, lei è mugnaio da generazioni, immagino, perché... Io sono mugnaio da 3, 4, 5 generazioni. Lei lo sa che durante il fascismo ci fu degli studi diciamo di selezione dei semi proprio per fare del grano e hanno creato un grano fantastico che ancora è un grano importante. Andiamo piano con queste cose perché andiamo sul marketing, non sono pienamente d'accordo. Beh, però ci sono testimonianze di questo, cioè, hanno fatto un museo sul DNA in cui c'è una sezione dedicata a questo scienziato italiano che selezionò questo grano che doveva avere la caratteristica di produrre molto, essere seminato nelle aiuole dei giardini pubblici, però funzionava. Io, se mi permette 20 secondi, vorrei notificare un'altra cosa. Al tempo della quota 90, il regime impose che la farina, per ovvi motivi di economie, venisse abburrattata all'80-85%. Mi spiega il termine, no? Abburrattata che vuol dire? Abburrattato, cioè io la farina più la setaccio, più mi spiego terra a terra, più elimino le parti cruscali. Faccio una farina più raffinata. Cosa che oggi invece in realtà sembra che siamo al valore opposto. Non è detto, guardi, è un discorso lungo. Vabbè, adesso non voglio entrare nello specifico. È una cosa un po' complessa, non le voglio far perdere tempo. Sì. Non è che si butti dentro da una parte il grano, dall'altra esca la farina. Allora il regime può stare un genere di prima necessità come il pane, disse tu il pane lo fai con una farina, in parole povere, lo fai con una farina scura e non con una farina raffinata. Tutta la crusca che deve andare per uso zootecnico, bene, ne andrà meno di quella crusca per uso zootecnico. Ecco perché mi dicevano i miei genitori, i miei nonni, si mangiava il pane nero durante la guerra, perché erano abituati al pane come lo mangiamo oggi noi, più raffinato. A un certo punto con le sanzioni dissero il pane essere meno raffinato e quindi era un pane più scuro. Oggi bisogna andare nelle panetterie raffinate per avere un pane integrale soltanto con farina non raffinata. Allora era considerato un passo indietro, ma d'altronde erano i tempi in cui la crusca si dava ai maiali e alle galline e oggi si vende in farmacia. Silvano, buongiorno. Silvano, era questo? A Giuseppe. Eccomi qua. Giuseppe. Sente? Sì, l'ascolto. Beh, niente, buongiorno, dottor Nicoletti. Io stavo appunto riferendo al suo referente in questo momento, che ho avuto occasione tramite un lavoro che io faccio, tra l'altro, a Roma, al distretto di Roma, di avere la possibilità di fotocopiarmi il foglio matricolare del signor Benito Mussolini. Adesso è un cimelio unico. Ma presumodissima, poca cosa. Però il problema sta in questo. Ma allora a questo punto che facciamo? Bruciamo tutti i documenti, perché lì c'è altra roba. Lei quindi al foglio matricolare del Duce? Io ho la fotocopia, no, l'ho originale. Beh, comunque la foglia. Ci mancherebbe. Non è un documento che è circolato tanto, mi sembra. Non mi sembra averlo. No, non penso, infatti. Anche perché sono delle cose interessanti. Lei che l'ha fatto? L'ha incorniciato o lo tiene in ma una no, cartellina? Ma no, ce l'ho nel mio ufficio adesso, perché sono ancora in servizio. E lo tengo lì, ogni tanto lo mostro ai colleghi. E cosa dice questo foglio matricolare? Ma ci sono caratteristiche particolari, altezza, no, peso? Nel matricolare c'è scritto tutto ciò che è un excursus di una persona che ha fatto il servizio, con tutte le cose che stanno dentro. E che aveva fatto? Grazie, le cose. No, ma io sono allibito dal fatto che questi signori qua nel Parlamento stanno facendo questa caccia alle streghe assurdo. Ecco, mettiamo la stazione di Milano, va bene, no? Con la, no, ma però mi parli del foglio matricolare adesso. Sono curioso di sapere cosa c'era scritto, perché vabbè, insomma, non si ricorda. Attenti, lì diventa questo un po'. Vabbè, la privacy del Duce, ormai è bello che sepolto. No, la privacy del mio soggetto. Lei non potrebbe dire che. Ho capito. Lei sta rischiando molto. Comunque, abbiamo già raccolto. Guardi, mi ritengo soddisfatto. In questa prima tranche in trasmissione abbiamo un premio per la spiga più lunga, che può esserci anche un profondo significato simbolico legato alla virilità come elemento formante del regime, e un foglio matricolare del Duce che appare improvvisamente con tutto quello che il Duce aveva fatto fino al momento in cui questo foglio fu depositato. Ci fermiamo un istante, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. È stata inaugurata la mostra dei prodotti dell'impero, organizzata dal Banco di Roma sotto gli auspici dell'Istituto Fascista dell'Africa Italiana. Le ricchezze dell'immenso territorio etiopico nel campo agricolo, zootecnico, minerario, il cui sfruttamento è destinato ad uno splendido sviluppo, si sono dimostrate con una bene ordinata rassegna di campioni accanto a caratteristici prodotti dell'artigianato indigeno e ad una opportuna raccolta di cimeli di guerra. Stiamo facendo la rassegna dei cimeli fascisti nelle case degli italiani. Abbiamo cominciato lentamente, ma gradualmente, perlomeno abbiamo giocato sull'originalità. Abbiamo avuto una segnalazione di un diploma per la spiga più lunga, fondamentale durante la battaglia per il grano. Abbiamo avuto altresì una segnalazione importantissima di un addetto ai lavori che preferisce rimanere anonimo, che ha la fotocopia del foglio matricolare del Duce. Sentiamo cosa c'ha Alessandro. Alessandro, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, niente, io chiamavo proprio perché vabbè, sono affascinato dal discorso fascista, cioè, appoggio anche tante ideologie, quindi voglio dire, e oltretutto ho molti cimeli, magliette che mostro e indosso. Aspetti, cimeli cosa intende? Le cose che fanno oggi con il manganello che ho scritto? Sì, non manganelli solamente. No, ma quelle cose che vendono fatte adesso o cimeli realmente legati da un valore storico, quelli del ventennio? No, una roba recente. Vabbè, quella roba che vende nelle bancarelle, come quelli che ho scritto, sì, viva sì, la mamma del sorcio, c'ha lo stesso valore, non è che perfetto, poi a differenza magari... Però lei non è un collezionista, sì, quella roba può comprare chiunque, non ha un valore storico. No, valore storico no, però sono proprio appoggio l'ideologia. È fascista, ho capito. Molti mi possono anche ritenere fascista. Sì. Ho capito. Scusi, cosa c'entra in questa trasmissione? Io voglio sapere la gente che è cimeli. Se lei non c'ha lei a casa non c'è proprio niente, essendo tanto fascista, ma non c'ha nulla di storicamente... Non posso garantire che siano di valore, o anche cose che mi ha lasciato magari... Perfetto, allora racconti non quelli. Non penso che abbiano poi un valore. E cosa sono? Racconti, ma cosa ha lasciato suo nonno? Questo mi interessa. Monetine, sono delle monetine, per esempio, che venivano utilizzate penso 50 anni fa. Poi? E poi ci sono delle cose che aveva sulla divisa ai tempi in cui ha fatto la guerra. Le mostrine, ma cos'era? Dov'era? Nella Guardia Nazionale Repubblicana? Dove stava suo nonno? No, erano proprio io ripeto, ho avuto poco. Da piccolo parlavo col nonno, quindi so ben poco, non avendoli più, erano cose che aveva su e non ho. Ma ci sono i fasci littorico l'Aquila o ci sono, diciamo, le stellette? Sì, c'è il fascio con l'ascia, L'ascia. L'ascia, va bene, si chiama ascia, il fascio littorio. Va bene, ho capito, sì. Alessandro. La sua è una professione di fede, non c'ha roba interessante. Iginio, buongiorno. Pronto? Iginio, lei cosa ha in casa? Dunque, parlo da Padova, buongiorno intanto. Buongiorno. Ho 85 anni, volevo segnalare che tra i gioielli di famiglia, gioielli tra virgolette, c'è... Ma attenzione che gioielli di famiglia è anche un'accezione diversa. I suoi gioielli di famiglia... Non erano gioielli, era una coppia di gemelli da camicia per i polsini, sì. I polsini in argento, sì. Una meraviglia, erano di forma ovale, sì. Ovale, e sulle quattro facce dei due gemelli c'era stilizzato in nero, era l'argento trattato chimicamente, il volto di Mussolini. Ma quindi lei ancora, gemelli in argento con la faccia del Duce. Non è nostalgico, li ho regalati a mio nipote. Ecco, una meraviglia. Vabbè, gemelli, ma come erano arrivati? A casa sua come erano arrivati? Non lo sa. Come erano arrivati a casa sua? Chi l'aveva erano di mio padre. E suo padre quando se li metteva i gemelli con il Duce? Nelle grandi occasioni? Io non li ho mai visti, Beh, però gliel'ha lasciati, questa è una cosa originale. Gemelli in argento con in argento stilizzata... sulle ovali. Ovali. La forma tradizionale. Con la mascella volitiva, naturalmente. Come? La mascella del Duce era volitiva in questa rappresentazione. Troppo, lievemente, quasi, moderatamente volitiva. Bravo, sì, Iginio. Era un po' stilizzato. 800 24 00 24. Vedete anche, seguite l'esempio di Iginio e tanti altri. Segnalate gli oggetti particolari, singolari. Segnalate anche perché fra poco potrebbe venire qualcuno a bussare a casa vostra e dire consegnameli, così almeno avete già pronto l'elenco. Roberto. Sì, salve, buonasera Nicoletti. Sì. Allora, io sono appassionato di modernariato, quindi ho varie cose dell'epoca. Ne segnalo una che l'ho subito incorniciata in casa. Mm. Ho una scheda elettorale dei tempi del fascismo, non so la data precisa, negli anni 30 probabilmente, dove dice confermate voi i membri del Gran Consiglio del Fascismo, e sotto c'è scritto sì. Certo, solo sì, qua c'è il no, è chiaro. È inquietante, non c'è via di mezzo. Il no corrispondeva a una razione di olio di ricino, non manganellate, se no che fascismo è. Quindi mi permetta una piccola osservazione, nel senso, ora chiaramente, come tutte le cose, sono gli eccessi che non vanno bene, no? Lei dice ci starebbe bene anche oggi una cosa del genere, questo vuol dire. Assolutamente no, io sono ultrademocratico. Dico che chi si professa fascista ora... O è un grande ignorante, cioè colui che ignora come... Sì, Maurizio, non è che voglio interromperla in un pensiero sublime, però oggi mi interessa solo i cimeli, non voglio fare considerazioni storiche, ideologiche, in altra trasmissione. Diamo per scontato che c'è la condanna unanime su tutto. Lei ha una scheda fantastica, a pensarla, dove c'è scritto confermi tutti i membri di questo collegio elettorale, c'è solo scritto sì, il no non è contemplato. Se uno, non so, potrà fare scheda bianca, forse, magari, ma tanto valeva lo stesso. Allora, Maurizio, buongiorno Maurizio. Buongiorno Nicoletti. Sentiamo. Allora, io avevo chiamato perché ho un cimelio che si riferisce esattamente a quella spiga, a quel premio con la spiga che... Ah, la spiga più lunga. Era una povera fissa. E com'è questo cimelio? Allora, questo è il cartello della mitica battaglia del grano. Mm. Quella che ha portato a essere indipendente dal punto di vista delle materie prime agricole. Delle inique sanzioni. Scusi, non ho sentito? Per combattere le inique sanzioni, così vengono chiamate, le sanzioni che vengono fatte. Esattamente, e facevano quindi questa serie di campi dimostrativi, quindi quando mi sono laureato una mia carissima amica mi ha regalato questo cartello in metallo in cui c'è scritto campo dimostrativo battaglia del grano con tutte... Con la spiga più lunga. Ognuno si misurava la sua spiga e poi mandava, diciamo, una specie di concorso, con la più lunga vinceva il suo premio. Mi sembra logico. Non era proprio così. No, diciamo com'era? Che uno dei fattori per cui veniva selezionato il grano era anche la lunghezza della spiga, ma non era solo questo. Anche, diciamo, la potenza, diciamo... Il prodotto che si otteneva, la qualità. Comunque, ripeto, già l'ho accennato soltanto, ci sono degli studi importantissimi sulla genetica del grano in Italia che ancora, diciamo, hanno permesso la selezione di un particolare grano molto produttivo. Paolo, buongiorno. Buongiorno, salve. Niente, io le racconto la mia esperienza da collezionista. Io fondamentalmente colleziono oggetti dall'inizio del Novecento fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi c'ha tutta la roba che va appunto nel ventennio fascista. Sì, anche so anche quello, ma c'ho anche molte, non so, borracce, medaglie di altro tipo, perché a mio avviso i primi 50 anni del Novecento sono sicuramente stati quelli che hanno più cambiato il mondo, perlomeno nell'era moderna, ecco. Sì, e quindi a livello storico è quello che mi interessa di più. Penso così, i prodotti creati in catena industriale ne rimangono più tracce, quelli prima erano meno. Questa cosa la racconto tutte le volte che vado nel mio lavoro a lavorare in casa di persone. Molte volte queste persone mi dicono sì, io in casa c'ho questo, in casa c'ho quell'altro. Mi dica qualcosa però di interessante, qualche oggetto inedito. E a volte me le donano. Due oggetti che ho, e quelle che ho detto anche alla segreteria, uno particolare, un posacenere, mi dicono ti do questo posacenere. Guarda, ma non mi interessa. Ascoltalo bene. Come ascoltalo? È un posacenere, cosa devo ascoltare? Qual è il segreto? Niente, mi fanno spostare una piccola levetta che c'è di fianco al posacenere e inizia a suonare un carillon con Giovinezza. Ah, il posacenere, ma questa è una cosa moderna o del tempo? No, dell'epoca, perché si vede dal materiale, probabilmente era un classico regalo, un gadget che qualche negozio regalava al suo cliente come posacenere. Lei come ce l'ha ancora questo oggetto? Assolutamente sì. Questo è un oggetto al suo valore, adesso non so in che tiratura era stato prodotto, ma il carillon, quando uno ci appoggia il mozzicone di sigaretta, lo spinge un po' e va giovinezza, primavera di bellezza. Armando, buongiorno. Armando, si riveli. Armando, se chiamate, ma non vi allontanate dal telefono. Sta litigando con la moglie, Armando. Vabbè, dopo quando ha finito ci chiami. Giorgio. Sì, Giorgio, buongiorno. Cosa possiede? Buongiorno. Allora, i distintivi dell'Opera Nazionale Dopolavoro. Sì. Per il dopolavoro fascista. Quanti ne ha? È una bella sacchettata, diciamo una cinquantina, forse anche qualcosa di più. Ma come mai tutti questi distintivi? Come mai? Perché il mio nonno era tesoriere della locale Casa del Fascio. Quindi c'aveva tutti i gadget da distribuire. No, solo questi. E devo dire che l'altra cosa, che secondo me è bellissima, perché è l'atto costitutivo della Casa del Fascio. E perciò ci sono... costituita una società che all'epoca si chiamava società anonima Casa d'Italia, alla quale parteciparono tutti gli abitanti del paese, cioè tutti gli abitanti del paese erano soci, dal conte fino all'ultimo dei braccianti, ognuno dando come anche perché sembrava brutto poi non partecipare lì, non sarebbe stato consigliato, correvano tutti a partecipare. Però devo dire bel carino, perché intanto la Casa del Fascio poi è stata realizzata oggi. Intanto l'hanno la Casa fatta, del Popolo oggi ovviamente la Casa del Popolo, ma l'altra cosa è che poi chi poteva partecipava con una dazione in denaro, per esempio il conte, il marchese del posto, eccetera, o l'avvocato, il notario. Gli altri parteciparono apportando materie prime. Bene in natura, come sempre succedeva, è chiaro. Però, cioè, carino, io personalmente sono sempre votato sinistra, a casa mia siamo sempre stati. Questa non è la mattina in cui uno si deve giustificare. Le volevo dire un'altra cosa, lo capisco. Però quel valore che hanno quei cimeli non riesco a pensare possa essere totalmente negativo, perché trasportano comunque quello che sono stati. C'è l'afflato della piccola comunità che sa, certo, poi le condanne sui periodi storici sono a posteriori. Esatto, non sapevano fra 50 anni che diranno di questa epoca, diranno ma come tu hai vissuto negli anni 2015-2017, non ti vergogni, e dico che ne so, non sei ribellato, non sei sceso in piazza. Mi fa piacere che abbia colto quello che volevo dire. Gli anni, aver vissuto qualcosa conta alla fine, non è che soltanto ci si avvicina alla tomba, ma uno ha capito un po' più di quello che ha visto. Ci sentiamo tra un istante, 800 24 00 24, elencate i cimeli fascisti che tenete conservati o nascosti a casa vostra. Melog, cronache meridiane. 800 24 00 24, sono molto soddisfatto. Ero partito con un azzardo, pensando che sarebbe stato difficile, se non impossibile, ottenere dagli italiani una sincera ammissione delle panoplie, dei rimasugli, dei trofei fascisti che conservano a casa loro. Ho avuto finora una rassegna di oggetti molto originali. Nessuno mi ha chiamato per dire il fascio, il testone del duce che ho scritto, se avanzo seguitemi, se indietreggio uccidetemi. Poi sì, era da vedere comunque. Maurizio da Livorno, buongiorno. Buongiorno. Che possiede lei? Dunque, senta, io possiedo, registrato dalla nonna, possiedo una scatoletta in cui sopra c'è scritto cucirino autarchico, cioè praticamente è un kit per cucire con dei rocchetti di filo riciclato, perché erano dopo le sanzioni, degli aghi in vitale. Ah, come quelle scatoline che danno come gadget negli alberghi, che ci sono i rotolini di filo, l'ago, il ditale, l'infilago. Sì, piuttosto, cioè, ce ne sono diversi però di rotolini, non era un oggetto abbastanza... Di che colore sono i fili? I fili sono di nero, bianco e blu. Non è bello, sai, non erano periodi molto estrosi, né? C'era il rosso, il giallo, il viola, l'arcobaleno ancora non era contemplato. Quindi era quello che serviva per cucire una divisa, un abito, diciamo, esatto, decente di nessuno. Esatto, per casa all'epoca. E sua nonna l'ha tenuto sempre da parte, bel riposto, perché se lei ancora lo possiede. Sì, l'ho tenuto. Va bene, grazie, il cucirino autarchico. Armando. Stiamo scoprendo cose che non sapevo. Armando. Salve. Cosa possiede? Allora, io mi chiamo Armando, sono di Reggio Emilia, io colleziono un po' di tutto, però è da anni che colleziono i quaderni dei ragazzi delle elementari del periodo fascista e penso di averne circa 800, in più tutte le pagelle. È una cosa, premetto che io sono figlio di gente che sono stati partigiani. Sì, ma questo oggi guardi, non è richiesta la patente, vengo da periodi in cui tutto era considerato antifascista, anche se c'era, che ne so, ti vendevano le cipolle per strada, cipolle antifascista, non mi importa nulla, può pensare a quello che vuole, voglio capire gli oggetti che ha. Dunque, queste collezioni di quaderni sono quaderni compilati con i compiti. Mi dia qualche idea di quello che c'è scritto, perché voglio capire cosa traspare, trapela, cosa le fa venire in mente leggere i compiti di questi bambini. Io le dico, io sono rimasto molto un po' sconvolto dall'inizio, perché prendevo questi quaderni, a parte la grafica, no? Che comunque c'era una scrittura che veniva fatta con... Beh, c'era la scuola di calligrafia, la calligrafia era una disciplina scolastica. Sì. E poi c'era un po' tutto quello che era la vita quotidiana, dalla vita del paese, dalla vita... anche popolare, no? Ecco, 800 quaderni, faccia capire quali sono le sue fonti, perché se qualcuno li ha conservati c'erano molte le persone che li avevano in casa. Io ho cominciato 20 anni fa comprando delle pagelle del periodo fascista, perché mi interessava questa logica. Ma dove le trova? In antiche scuole dismesse? Io vado ai mercatini. Ah, ai mercatini qua nell'Emilia Romagna, che si trova molto di queste cose, e che diciamo è una fonte ancora abbastanza buona. Quindi lei è molto interessato, diciamo, al tema della scuola, la scuola sotto il fascismo. A me piaceva molto quello, perché rispecchia un po' la vita d'allora, è come vedere un film, capito? Cioè tu vedi un qualcosa che... Vabbè, ci fu la famosa riforma di Giovanni Gentile, la scuola, c'era un impegno sulla scuola, certo la scuola era anche palestra di propaganda, ma il principio del regime era questo. Anche di quello, sì ma il principio del regime era quello, alleviamo tutti i pollastri nello stesso pollaio perché facciano poi una grande potenza. Bravo. Questo, cioè è inutile girarci intorno, non è che si poteva pretendere, se si chiama regime e sarà una dittatura, quello è, va studiato e analizzato come meccanismo. A me interessa molto, perché capire come passavano, diciamo, come venivano infiltrate sin dalla fanciullezza questi principi che devono essere eterni, sfidare il tempo, è interessante. Armando, abbiamo detto Antonio. Antonino, mi scusi. Sì, da provincia di Messina. Allora, Antonio, lei cosa c'ha in casa? Io sono quasi 80enne, io ho un servo con gelosia, le fedi di ferro che i miei genitori hanno dovuto poi rifarsi perché avevano dato l'oro alla patria. Uno dava nel crogiolo la fede d'oro e otteneva una fede di ferro. Anche io me la aveva mia nonna, era una fede di alluminio però la sua, era molto... Di alluminio, sì, ma mio padre era fabbro allora ed era antifascista, non aveva la tessera, insomma, questi ricordi sono particolarmente interessanti. Qui avete a queste due fedi di alluminio, quelle che la gente teneva, perché la fede andava data alla patria, l'hanno dati tutta alla patria. Altri oggetti? No, altri oggetti, qualcosa che riguarda l'educazione religiosa, però credo che quella sia opera del Vaticano. Quella è rimasta sempre uguale nei secoli, si è adattata a tutti i regimi, penso ovviamente sugli stessi libretti, non credo che sia. E leggendola oggi, questa guida degli sposi, per esempio cosa dice questo libro sugli sposi? Cosa devono fare? Non ce l'ho qui sotto mano, altrimenti, ma l'ho letta qualche tempo fa. E confrontandola alle abitudini di oggi Vabbè, diceva che la sposa doveva stare in casa, occuparsi dei figli, sì, essere il conforto di suo marito, anche quando tornava stanco e affaticato, rendersi conto che se la menava magari non è perché era cattivo, ma perché doveva un po' sfogarsi. Queste sono le cose classiche. Va bene, grazie. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Nicoletti. Cosa? Ascolti, io dal mio vicino di casa, che suo nonno era in guerra nell'esercito, dopo l'8 settembre è andato nella resistenza, c'è stata un'azione di guerra in Africa, è stato decorato dai tedeschi con una croce di guerra che ce l'ha in casa, l'ho vista in mano mia, con scritto dietro 1939, la croce di guerra è quella della Wehrmacht, quella proprio nera con bordi. Hai la lamina, l'hanno presa. Per la battaglia. Sì, c'è anche l'articolo di giornale dove è stato decorato sulla Gazzetta di Modena, perché loro sono originari di Modena, e è stato decorato, dopodiché l'8 settembre lui è andato nella resistenza, da tutt'altra parte, e c'è questa croce di guerra, ce l'ha in casa. C'è questa croce di guerra, ogni tanto la tira fuori, me la fa vedere, insieme a altri cimeli. Ma altri ricordi, diciamo, della guerra d'Africa di suo nonno, a parte la croce? Che... Non è mio nonno, è il nonno del mio vicino di casa. E come ce l'ha lei? Gliel'ha prestata? No, assolutamente, ce l'ha lui in casa e io ogni tanto tiriamo fuori... intanto andate a casa, che facciamo stasera? Guardiamo la croce del nonno. No, perché insomma, quando me l'ha detto che ce l'aveva, io ho detto, ma veramente? Cioè, guardato dietro. Sono molti italiani. 1939 e quelle che si vedono anche su Stuntruppen, che c'è questa croce di guerra, quello che si vede nelle fotografie. La sua fonte storica è Sturmtruppen, però sì, è chiaro, erano decorazioni in quel periodo, erano alleati e combattevano insieme e sì, non è che si decorava così era una prassi comune a un italiano anche, cioè al tiro alleato, l'italiano è stata c'è un sacrario ai Lalamein, degli italiani sono caduti lì, quindi... Sì, lo so, è che cioè, i tedeschi non è che ci avevano questa gran considerazione di assolutamente, noi, assolutamente, però per quel caso... per essere decorato dall'esercito tedesco, dalla Wehrmacht, o magari chissà, magari anche dai nazi, ma penso che era la Wehrmacht. Comunque avrà combattuto in maniera esemplare, nessuno dice niente, però il cimelio che rimane è il ricordo del nonno combattente. Beh, avete visto, gli italiani ce li hanno a casa, quindi se dovranno mai essere vietati, preparatevi a classificarli e a portarli via, poi dove li mettete non si so, dovete fare un museo per forza. Alla prossima!